piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Non abbiamo bisogno dei negozi aperti di domenica, è stato lo slogan di una recente campagna di sensibilizzazione che si riferiva al richiamo all'editto dell'imperatore Costantino del 3 marzo 321, in cui si posero le basi giuridiche per la nascita della domenica libera dal lavoro. Il Consiglio Provinciale di Bolzano ha approvato una mozione contro il lavoro nelle giornate domenicali e festive. Il documento presentato da Andrea Pöder del partito della destra Sud Tirolese Bürger Union impegna la giunta provinciale ad adoperarsi per mantenere il riposo domenicale festivo e ad esprimersi contro il lavoro domenicale nei settori in cui non risulti assolutamente necessario, nonché ad adottare misure che contribuiscano a limitare le aperture domenicali e festive. La mozione è stata approvata all'unanimità. In Alto Adige il riposo domenicale è infatti uno dei pochi temi che unisce e non divide e che vede d'accordo italiani e tedeschi, chiesa e sindacati. Nel 2009 è stata così costituita l'Alleanza per la Domenica Libera dal Lavoro. Ne fa parte la diocesi di Bolzano-Bressanone, i membri del Forum Cattolico e diversi altri movimenti, associazioni e sindacati. Certo che i preti ci vanno in brodo di giuggiole, nessuno lavora la domenica, tutti a messa, mi sembra di vederla la fila di gente che non va a fare la spesa agli ipermercati, non va a comperarsi le cose in quei fantastici paradisi della merce, ma va in fila a messa la domenica. La vicenda mi sembra attuale, questa mattina se ne parla nei giornali, si parte da una proposta del vicepresidente della Camera Luigi Di Maio, che improvvisamente sotto Natale si sente più buono del solito, ma già buonissimo comunque di natura, e dice no, assolutamente cerchiamo di approvare entro Natale la legge per tenere gli esercizi commerciali chiusi i giorni festivi, e fa una proposta molto articolata, 12 giorni fissi all'anno in cui i negozi non stare chiusi, guarda caso molte feste religiose, Epifania, Pasqua, Pasquetta, anche 1° maggio, 1° novembre, 8 dicembre, Natale, Santo Stefano, giorni chiusi, di questi 6 sono obbligatori, bisogna stare chiusi per forza. Dice che si fa perché così almeno c'è il diritto di stare in famiglia, di passare il Natale assieme, tutte belle cose naturalmente. Infatti risponde, leggo sulla Stampa di Torino, Filippo Santoro, un vescovo, presidente della commissione CE per il lavoro: non sacrifichiamo la vita per il profitto. Certo, se io non abitassi accanto al cupolone di San Pietro e non vedessi Natale, Capodanno, Pasqua, Pasquetta, Madonna, Domenica, tutte le feste possibili, aperti tutti i negozi di fanta bigiotteria religiosa, per quelli non vale, cioè la statuetta di Padre Pio uno può comprare qualsiasi giorno all'anno, ma però se uno vuol comprarsi le scarpe l'unico giorno libero che è la domenica, no, non si può, perché c'è l'obbligo del festeggiare la festa. Ora, non voglio entrare in merito a questa proposta di legge che dovrebbe approvare il Senato, la Camera diciamo l'ha approvata all'unanimità dal 2014, poi si è bloccata perché evidentemente ci sono delle pressioni, questo non voglio mettere in dubbio, da parte della grande distribuzione, che il vero affare proprio è portare le famiglie da luoghi di sollazzo, divertimento e raccoglimento al grande sollazzo, divertimento e raccoglimento di andare a guardare le vetrine dei negozi. Io personalmente come la penso? Ma io terrei aperto sempre tutto a discrezione, come appunto adesso, ognuno decide se tenere aperto o no. Chiaro, poi non vi lamentate se la sera tornando a casa uno fa la spesa nel negozio dei ragazzi del Bangladesh sotto casa perché l'alimentare ha tirato giù la saracinesca in maniera ferra alle 8 di sera, caschi il mondo, quella è chiusa. Se devo fare la spesa trovo aperto. Beh, come la pensate voi? Pensate che sia giusto che una legge dall'alto imponga il rispetto del precetto festivo, se esso religioso o laico, o pensate che ognuno deve essere libero di fare quello che vuole, gli va a lavorare la domenica, lavora la domenica. Esiste una suddivisione del tempo sacro, del tempo profano, che deve imporre che in certi giorni non si lavori, perché deve essere proprio la domenica? 800240024. Alba Rosa, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, io telefono dalla Sardegna, telefono dal Ghero, sì, da dove è cominciato il turismo dopo la guerra, negli anni 50, e da allora, specialmente nel centro storico, teniamo sempre negozi aperti. E questo vi fa male alla salute oppure vi porta gioia? Fa male alla salute, addirittura abbiamo, come dire, ci siamo messi contro il presidente della regione, sì, che pretendeva che chiudessimo per 4-5 festività l'anno, e noi abbiamo comunque disubbidito e aperto i negozi, perché è business, perché se non lavoriamo col turismo qui moriamo di fame. Mi faccia capire, Alba Rosa, aspetti un attimo, non la voglio interrompere, voglio articolare un po' il discorso per dare spunti di riflessione a livello nazionale. Io capisco, sì, una zona che vive di turismo, più state aperte, più vivete, poi vi organizzerete, magari durante la settimana farete dei turni, io farei la stessa cosa. E soprattutto, non so perché questa sorta di rispetto per legge dei precetti festivi deve valere solo per i commercianti. Io faccio il giornalista, ho sempre lavorato la domenica, so che tutti i miei colleghi lavorano la domenica, ci sono i turni normalmente, ma ci sono un'infinità di lavori che la domenica, per cui la domenica è un giorno lavorativo. Non so perché c'è questa sorta di tentativo di bloccare la transumanza familiare verso luoghi profani, questa è un po' la mia idea. Lei, secondo... Io sono d'accordo con lei, io ho una figlia che fa il medico e lavora anche la domenica, certo. Lavora anche di notte. Ma anche i tonti che fa il fotografo lavora la domenica, se lo chiama un cliente a fare un servizio ci va. Ma detto questo, secondo lei cosa si cela dietro questa volontà generale di imporre la festa come se fosse un precetto? Gli ebrei ortodossi che rispettano il sabato, cioè osservanti, che rispettano il sabato non lavorano. Caschi il mondo non lavorano. Perché? Perché è la forza di un convincimento religioso su cui è articolata la vita. Un osservante cattolico la domenica può andare alla messa e dire io vado alla messa e non lavoro. Oddio, le messe sono anche la mattina presto e la sera tardi. Se non fosse quello il problema non sarebbe quello. Lei come la vede però? Qual è il problema secondo lei? Ma guardi, il problema secondo me è una questione di mentalità. Perché le dico che Cagliari, che adesso ha il punto di partenza delle crociere da quando ci sono problemi nel Mediterraneo, aveva tutti i negozi chiusi, quindi arrivavano migliaia di persone e non avevano neanche i bar aperti. Una vergogna, secondo me è una grande pigrizia ed una mente ristretta. Si vede che non hanno problemi di sostentamento, beati loro, se lo possono permettere. No, adesso aprono. Ah, ecco. Adesso aprono, non l'hanno capito. Ma sa, noi è dal secolo scorso che apriamo sempre e nessuno brontola. Io ho 12 dipendenti perché ho un caffè storico e io non faccio la chiusura, cioè il giorno di riposo, loro a rotazione fanno il giorno di riposo. Se hanno bisogno di andare a messa si dà il sabato sera o la domenica e si va avanti, ma nessuno brontola, tutti vengono a lavorare ad Alghero senza problemi. Dove esistono i problemi? Alba Rosa, grazie. Allora, Alba Rosa ha espresso una posizione ben netta, decisa, senza possibilità di equivoco. Ma ci sono opinioni opposte, pensate che in voi, in realtà, io non ho voluto fare il pasdaran della libera saracinesca alzata, ma uno può anche pensarla al contrario. Dateci degli argomenti che possano convincerci. 800240024, Pino. Pino, lei la pensa in maniera opposta rispetto alla signora? Sì, assolutamente. Ecco, allora esprima l'altra posizione, così capiamo un po' come articolare. Non è una questione religiosa, una questione per andare a messa o cose di questo genere. Beh, però guardi, stranamente la CEI è d'accordissimo su questa cosa. Allora, io non sono d'accordo sull'apertura domenicale perché la Germania, che è la prima economia europea, chiude sempre i negozi alle 18:30. È proprio perché è la prima economia, evidentemente. Sono chiusi ed è la prima economia europea. Quindi se lo può permettere. Perché loro se lo possono permettere, evidentemente. Poi scusi. I luoghi di villeggiatura che vivono sul turismo è un conto. I posti dove c'è villeggiatura va bene che periodicamente, dove quando c'è il flusso di turisti, abbiano dei negozi aperti perché è giusto ed è doveroso offrire ai... E gli altri perché secondo lei dovrebbe essergli imposto la chiusura? Se a loro va di lavorare, di tenere aperto, qual è il problema? Solo per capire, faccio delle domande perché voglio capire bene il punto di vista. Allora, il problema è che quando ci si può riposare tutti in uno stesso giorno e si va a fare altre cose, cioè... Non è necessario che siano aperti tutti questi negozi di alimentari. Mica tutti si riposano lo stesso giorno. Per tante persone la domenica è un giorno come un altro. Si alza la mattina, sì, c'è meno traffico in giro, è più contento perché lavora meglio. Esiste questa umanità, non può essere imposto. Vorrei rimanere anche a casa con la mia famiglia fare le cose che mi piacciono. Certo, sì, nel giorno di che è più congeniale alla mia famiglia. Sì, ma io dico, ma quello che dico, cioè, beh, se libertà, secondo me, libertà di organizzarsi come meglio si crede, però se una persona non ha questa necessità, anzi tutta la famiglia magari è impegnata in un lavoro che impegna la famiglia, metta a caso la gestione di un negozio, una piccola azienda familiare, perché impedire a loro di rimanere aperti un giorno che potrebbero fare del giusto profitto, visto che ci sono le persone più che vanno a passeggio, che hanno meno cose da fare? Sa quante famiglie ormai in Italia, è cambiata un po', usa la domenica e il sabato come giorni dello shopping familiare. Se va nei grandi centri commerciali, sabato e domenica è pieno di gente, le scarpe ai bambini, i vestiti alla nonna e le pentole per la cucina si vanno a comprare il sabato e la domenica, perché gli altri giorni si lavora. Perché impedire questa mutazione della società, che è indubbia, non è che si può tornare indietro. Sentiamo Marco. Marco, buongiorno Nicoletti. L'ascolto. La faccio brevissima. Io 3 anni fa mi sono trovato per varie ragioni a dover lasciare il mio lavoro dipendente, sono andato a lavorare nel negozio di famiglia e l'alternativa era molto semplice: o licenziavamo la dipendente oppure lavoravamo anche la domenica. Ci siamo messi su turni. Lavoriamo tranquillamente anche la domenica, nessuno muore, mi associo alla signora che ha parlato prima, per cui noi praticamente lavoriamo 7/7, che siamo tra virgolette titolari. Beh, roba vostra, roba vostra. Sì, ma questi sono affari nostri. Ma, sì, ma chiunque, chiunque lavora sul suo, lavora sempre. Sì, sì, no, ma fatti, per carità. Il lavoro è la ragione della vita per molte persone. Bravo, si sta meglio lavorando che facendo niente. Ma parla con una persona che s'annoia quando non c'ha da lavorare. Lo so, ho capito, lo so. Non, probabilmente il mondo è un po' differenziato. Secondo lei, faccio anche a lei la domanda per non dare l'impressione che facciamo una trasmissione a senso unico. Qual è alla radice l'opposizione nei confronti di questa apertura liberale, che ognuno fa quello che gli pare, apre, chiude, tiene aperto, in piena libertà? Qual è l'opposizione? La radice è evidente, Nicoletti, è la mentalità, la strisciante mentalità protezionistica, dirigistica, socialista che c'è nel paese. Cioè chi ne parla a favore di Rifo di Raffa è un dipendente. E comunque il suo principio genericamente è questa fantomatica difesa del dipendente che la domenica non deve lavorare. Questa è la realtà dei fatti, poi la possiamo rigirare in mille modi, ma l'ipocrisia di fondo che c'è è evidente. L'ha centrata benissimo lei quando ha iniziato la trasmissione con i negozietti delle statuine di Padre Io Pio. Non ho visto, non li vedo più di mai chiusi. Non so infatti che stiamo parlando. Lì c'è sempre persone che ci vanno, sono sempre aperti. Se vuole la Madonnina di Lourdes con l'acqua santa dentro, la può comprare a qualsiasi ora del giorno, sempre, ogni giorno, anche il giorno di Natale. La verità, perché i sindacati non vendono niente, perché se vendessero le magliette del sindacato può stare tranquillo che se la domenica c'è la manifestazione il negozio resterebbe aperto. Quindi allora, vediamo di ragionare. Mi sembra lei una persona con strumenti di analisi più raffinati dei miei, visto che è nel mestiere. Ma esiste forse la necessità di una sorta di restaurazione di un ordine costituito in cui ci sia una scansione del tempo sacro, del tempo liturgico, anche il 1° maggio? Ma se io voglio lavorare il 1° maggio, per me non ha nessun senso starsene a casa il 1° maggio, è un giorno di lavoro. Non capisco perché. C'è a me che scrissi un articolo sul giornale sul fatto che non mi risulta che il 1° maggio, il 25 aprile, i pomodori la smettano di necessitare dell'inapertura. Bravo, letto una cosa. Chi lavora in campagna non si pone questo problema. Cioè, se noi mangiamo l'insalatina è perché qualcuno l'ha piantata, trapiantata, è innaffiata qualsiasi giorno dell'anno, e se sotto Natale gela deve andarla a coprire perché non si ghiaccia. Sono convenzioni, per carità di Dio, però anche senza tante discussioni, anche i contadini la domenica poi smettevano, cioè si prendevano un giorno di riposo, per carità. Il giorno di riposo è sacrosanto, nessuno lo mette in dubbio. Se potevano. Il dirigismo statuale che è veramente fastidioso. Quel signore di prima prendeva ad esempio la Germania, ma stiamo scherzando, la Germania ha un'imposizione fiscale anch'io avrei voluto avere l'imposizione fiscale dei negozi tedeschi. Chiuderei anch'io alle 6. Certo, è quello che ho cercato di far capire quel signore, proprio perché stanno in Germania, possono chiudere alle 6 e vivono tranquillamente bene. Se uno deve tenere aperto la domenica, lavorare anche la domenica, giorni festivi, evidentemente ha bisogno, per mantenere in piedi la sua attività bisogna lavorare, esatto, quei giorni. E voglio dire, il profitto bisognerebbe affrontare. Cioè la domanda vera è: perché un negozio è costretto a stare aperto 7 su 7? Perché così, cioè, almeno fa piano con i conti, penso, non è il mio mestiere. Ma per il profitto, ma mi fa ridere la storia, ma che profitto? Sì, profitto. Le pezze al sedere 41, fanno più male, fanno più male, fanno più male dell'osservanza della festa, secondo me. La miseria è molto più spaventosa, il disastro economico è molto più spaventoso di dire stiamo con la famiglia la domenica. Uno ci può stare anche il martedì con la famiglia, si organizza, trova il modo, quando ha ben lavorato trova il modo di stare con la famiglia. Ma chi sta con la famiglia come prima tutti insieme a mangiare il pollo arrosto con le patate, la domenica si fa la preghierina? Non esiste più questo mondo, perché dobbiamo restaurarlo proprio nel campo dell'economia, che è uno dei più delicati. Ci fermiamo un istante, tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog. Nella Bibbia si dica che il Signore lavorò sei giorni e il settimo si riposò. Significa che tutto sommato nella natura umana c'è la necessità di avere un giorno per poterlo dedicare al riposo e alle relazioni interpersonali. Io vedo mia moglie due fine settimana, parlo di sabato e domenica, li lavora tutti i mesi. Un fine settimana lavora o il sabato e la domenica, rimangono quegli altri. Quello che mi infastidisce particolarmente è per il fatto che i bambini ormai hanno identificato il fine settimana con il padre. Sei giorni su sette con un giorno di riposo che corrisponde al mio esperienza personale, lunedì o il martedì, dove la moglie semmai lavora, per cui sei un giorno che sei tu solo a casa come uno stupido, e la settimana dopo riparte così. Mi stanno massacrando, in primis Fabrizio Intonti. Eh sì, tu bravo, fai un lavoro gratificante. Sì, stai alzato fino alle 5 magari a scrivere, ma poi c'è la soddisfazione. Mica vai a zappare la terra. Vabbè, oh, ragazzi, adesso me lo sentire anche in colpa per questo. È vero comunque che l'Italia, da quando nel 2012 c'è stata la liberalizzazione, il decreto Cresci Italia di Monti, vi ricordate? L'unico paese al mondo, perlomeno in Europa, no, al mondo no, in Europa, andate a Hong Kong e trovate un negozio chiuso in qualsiasi giorno della settimana dell'anno. Dico, comunque in Europa siamo gli unici che non abbiamo nessuna restrizione di chiusura. Io trovo sia un passo di civiltà. Gli altri sono chiusi, semichiusi, parzialmente chiusi a seconda delle feste. L'unico paese in Europa a non avere restrizioni. Vogliamo imporci delle restrizioni. Mi stanno scrivendo anche molti ascoltatori dicendo e allora sì, allora perché dobbiamo tenere conto soltanto degli esercizi commerciali? Allora chiudiamo anche gli ospedali, chiudiamo i ristoranti, chiudiamo i bar, non facciamo trasporto pubblico. C'è un'infinità di categorie di lavoratori, lavori anche usuranti, faticosi, che lavorano sabato, domenica, i giorni festivi, Natale, Capodanno, sempre. Si fanno i turni, hanno giustamente le loro retribuzioni adeguate, così dovrebbe essere perlomeno al giorno festivo che si lavora. Non sono d'accordo con il ritorno a una suddivisione arcaica della società in cui c'è il giorno sacro. Il giorno sacro può esserci benissimo, sono convinto che abbia un grande valore in chi articola su questo tipo di struttura mentale la propria vita, ma non può essere generalizzato, non può essere imposto a tutti. Per molti la domenica è un giorno come un altro, è bello soltanto, come ho detto, perché le strade sono un po' più libere, ma è il giorno migliore per lavorare. Enzo, buongiorno. Sì, buongiorno. L'ascolto. Ma io sono di questa opinione, che chi ha un'attività in proprio deve poter lavorare come e quando vuole. Sì. Sostanzialmente, anzi, aggiungo che per quanto riguarda, diciamo, l'operaio o l'impiegato che ha degli orari obbligati, se quando esce poi non trova il negozio aperto, quando fa la spesa? Altra cosa, quando dobbiamo fare la carta d'identità? Perché dobbiamo stare a casa da lavoro per andare a fare la carta d'identità? Quindi, perché gli uffici pubblici hanno un orario preciso, certo, giustamente. Manca un servizio generalizzato, tutto lì. Quindi ognuno deve poter fare, soprattutto se lavora in proprio, deve poter fare quello che vuole, quando vuole, come vuole. Infatti a me sembra più un problema di dover ribadire il senso che esista una grande mamma, un grande tutore, un grande principio assoluto su cui bisogna uniformarci. Perché finora non mi sono abbastanza convinto che il vero problema sia che le famiglie non stare insieme la domenica. Non mi sembra che sia questo proprio esattamente il problema. Qualcuno può convincermi del contrario. Michele. Buongiorno. L'ascolto. Lei prima parlava degli agricoltori, io sono uno IAP. praticamente noi ci fermiamo solo quando le condizioni atmosferiche ci impediscono, diciamo, di poter lavorare. Ma la campagna è questo, nessuno fa battaglie per dire no, fermi, è il 25 aprile, oggi non si raccolgono le patate. Ma è la natura che ti comanda, cioè non in posizione dell'altro non ci possono esistere. Se arrivano le pesche a maturazione non esiste, diciamo... Vanno raccolte, certo. Vanno raccolte e quindi, diciamo, si fa festa solo se piove oppure se nevica e basta. Allora mi scusa Augusto, quelli che invocano una sorta di diritto di natura a dover rispettare il giorno festivo, la natura in realtà dice questo, tu di essere sempre pronto alla necessità in qualunque momento, vale per la terra, per i lavori della terra, ma vale anche per gli altri lavori. Sì, sì, infatti... Cioè non è che un giornale può tenere chiuso la domenica perché è festa, poi il lunedì la gente le notizie le vuole sì, avere. Ma se uno è un osservatore attento della società ci si rende conto che 24 ore della giornata si lavora sempre, c'è chi lavora di notte, chi lavora di giorno, cioè ormai è questo il mondo. Questo andava bene che sono nel 700, nell'800, dove i ritmi della vita erano diversi, il commercio non era così florido come adesso, cioè io trovo questo assurdo e poi vietare, cioè imporre qualcosa e privare della libertà di un autonomo, diciamo, di poter... Uno può anche imporre, però deve essere convincente il motivo per cui viene imposto qualcosa. In questo caso il motivo è il rispetto della festa e permettere alle famiglie di stare assieme. Questo non mi convince molto. Germano, sentiamo Germano. Sì, pronto, buongiorno Nicoletti. Il suo punto di vista. Sì, ma il mio punto di vista è che sarebbe meglio invece limitare il più possibile le aperture, perché giustamente, ho sentito la trasmissione, insomma, come diceva lei, è trapassato dalla religione, no, questo senso del giorno, no, il settimo giorno si riposò. Però chi si riposò il settimo giorno? Poi qualcuno se lo ricorda, se lei se lo ricorda. Sì, no, me lo ricordo, sì, ma sì. No, nel senso che questa non è che mi viene a bussare sulla saracinesca e mi dice guarda, tirela giù perché oggi bisogna riposarti. No, quando verrà magari ne prenderò conto, ma finora è un'ipotesi, diciamo. Certo. Ma io più che degli artigiani io parlavo specialmente riferito ai dipendenti, perché poi non è tanto vero che ormai l'Italia sia totalmente diversa, cioè il familismo, lei lo sa che è un carattere della nostra cultura molto forte, sì. E ritrova nei momenti di festa veramente, no, l'unione, il senso della famiglia, ma anche degli amici, anche per un single, perché fare il riposo il lunedì, uno esce di casa, non c'è nessuno a casa, è da solo come un cane, pieno. Guardi, di cane, io conosco un sacco di gente che lunedì farebbe salti mortali, non è così, dipende, esistono, diciamo, delle aree del paese anche molto vaste, anche predominanti, in cui ancora resiste una strutturazione della società su basi tradizionali, esiste il resto del mondo che magari si organizza a seconda dell'estro, del momento, della richiesta rispetto alla professione che svolge. Non è esattamente così. Lunedì è una bellissima giornata per uscire, perché stanno tutti belli arrabbiati perché gli dispiace di aver rinunciato al fine settimana nel tinello e nel cuscinino. Chi ha lavorato la domenica, lunedì è una pacchia, figuriamoci. Io ho fatto tanti anni i turni, Nicoletti, sono proprio giorni brutti, riposare il mercoledì, il giovedì, e invece è una bellezza la domenica, ci sono gli amici, ci sono i bambini, ci sono questo, e siamo ancora in però si rende conto, Germano, sono punti di vista questi, non è assoluto, no, senso, sì. Il paese è un po' cambiato. Va bene, comunque lei dell'idea che però conferma quella che è il mio sospetto. Questo serve a mantenere in vita una sorta di reliquia del passato, un modello tradizionale di società che esiste sì, ma non è diffusa in maniera totale. Francesco. Sì, pronto. Buongiorno signor Nicoletti. Ma non chiamano donne oggi, Francesco, non mai solo ma uomini. Ma che ne so io, comunque. Non sono interessate al problema, beate loro. Ma probabilmente la pensano, non hanno loro, lavorano sempre sabato, domenica. Questo è vero, questo è vero. C'è da dire, anche questo c'è da dire, ha detto una cosa molto giusta. Comunque sì, anche la donna che ha una famiglia, che ha una casa, non è che c'è un giorno di riposo, anzi la domenica è peggio degli fare le lasagne, fare l'arrostino, fare il dolce, fare il bagno ai bambini. C'è meno gente in casa se si lavora, di conseguenza sono più contente. Però io volevo dirle una cosa a riguardo. Il discorso del sabato e la domenica, se si calcola sempre sotto l'ottica dell'economia, uno può dire sì, ci sta, aumentiamo l'economia e bla bla bla, anche se oltre la Germania, la Svizzera, che è qua a due passi da casa mia, il sabato e la domenica sono chiusi, e quando uno lavora alla domenica deve fare un permesso speciale, anche se fa l'hostess in una fiera, e essere pagata in maniera adatta, perché il discorso è pagamento anche di come lo paghi una domenica. Ma detto questo, se vediamo, non è vero che esiste uno stereotipo di società che deve essere per forza così. Chi l'ha detto? Ah, io infatti sono d'accordo con lei. Non l'ha detto nessuno, non esiste che bisogna lavorare la domenica perché l'economia deve per forza andare avanti, eccetera, eccetera. Ma non è scritto nemmeno il contrario, però, mi scusi. No, infatti, però c'è scritto una cosa, è equa. La qualità della vita della gente si deve vedere. La qualità della vita della gente peggiora sempre di più, perché oggi si lavora sabato alla domenica, i contratti sono precari, si guadagna un cazzo alla domenica. Sì, però scusi, lei parla di una categoria che ha il mio rispetto e la mia piena considerazione, però tutto il resto dei lavoratori della domenica, e sono infiniti, sono tantissimi, le rifaccio il conto: trasporti, sanità, ristorazione, informazione, ma ce ne sono tantissime che comunque devono comunque avere un prestito la domenica. Perché di questi non vi ponete il problema? Scusate, perché chi lavora in un ospedale non si pone il problema che la domenica deve stare necessariamente a casa con la famiglia? Ma per forza, la domenica l'ospedale deve rimanere aperto, certo, è obbligatorio. E allora vedi, va lo stesso discorso che fanno a me. E che fanno a me, cioè, tu fai il giornalista, grazie, un bel lavoro. Sì, va bene, non dico di no, un bel lavoro. Però è un lavoro in cui non esiste la domenica, non esiste il festivo, mai. Io ho perso l'idea del festivo. Ma perché le notizie lunedì lei le deve pubblicare ed è un'esigenza, come l'ospedale, come tutto il resto. Ma se io devo comprarmi le scarpe e devo comprarmi 3 chili di pane, 3 chili di pane li posso comprare anche da lunedì a sabato, a venerdì. Non è che cambia la spesa o l'esigenza. Io compro le stesse cose, le posso comprare durante la settimana. Sì, ma non sono d'accordo su imporlo come un obbligo. Cioè, no, bisogna stare chiusi per ragioni che vanno al di sopra dell'interesse generale. Allora, l'unica ragione di imporre una cosa del genere è nell'ottica della qualità della vita delle persone. Se io permetto alle persone di stare insieme sabato e la domenica, aumento la qualità della vita Mica stanno tutti a lavorare insieme la domenica. Io immagino che, anzi, il discorso è diverso: fare delle turnazioni, dare degli incentivi, cioè che non sempre ci sia la condanna a lavorare sempre tutte le domeniche per tutti. Questo sono d'accordo, però detto questo, perché imporre un principio che la domenica la gente deve stare assieme? Ecco, ancora devo capire dove sta scritto su delle tavole della legge incancellabili e non sovrascrivibili che la domenica la gente debba stare assieme. Ci fermiamo un istante. Melog 800240024. Lamento l'assenza di donne in questa trasmissione, come se fosse un problema che passa sopra la condizione femminile. Siamo totalmente disinteressate. Mi spiace doverlo dire, perché faccio sempre questa chiamata alle armi delle ascoltatrici, che molte volte intervengono, sono una parte integrante, ma visto che quest'anno il mio interesse, la mia curiosità è proprio sondare il mio pubblico come se fosse un campione significativo dell'umanità che mi circonda, mi manca il loro parere, il loro punto di vista. Ma comunque vado avanti lo stesso. 800240024. Siete d'accordo sull'obbligo di rispettare le feste per i lavoratori, soprattutto, mi sembra di aver capito, per gli esercizi commerciali, perché per gli altri nessuno potrà mai imporre una regola, visto che sono lavori che necessariamente devono svolgersi per tutto l'anno. Augusto. Buonasera, buongiorno anzi. Sì, io non sono d'accordo per il lavoro domenicale. In primis perché penso che lì prima faceva riferimento alla storia dei valori. Io non credo che comunque ci debba essere per forza una dimensione religiosa in questo. Però i valori contano e molto. Abbiamo perso il discorso della famiglia, abbiamo perso la visione di quello che è la famiglia. La domenica potrebbe essere uno di questi giorni dove si può ritrovare, anche perché sennò i bambini uno quando li può vedere? Il lunedì non li puoi vedere, il martedì non li puoi vedere, allora dovrebbero stare aperte le scuole, dovrebbero stare aperte gli asili, le scuole materne. Io che ho dei bambini, come posso poi riposare e posso vedere i bambini? Chiaramente poi ci sono dei lavori come faceva riferimento prima lei, come gli infermieri, come i giornalisti, però per loro non vale lo stesso problema. Però loro non vale lo stesso problema, perché gli infermieri, cioè, dobbiamo dividere la società in persone che comunque sia non devono porre questo problema. Io non è che voglio riporre nuovamente la mia, però ognuno parla della sua esperienza. Io sono sposato con una giornalista, entrambi lavoravamo sabati e domenica in maniera alternata, i nostri figli sono stati cresciuti lo stesso, non sono morti, non si sono suicidati, non hanno avuto problemi particolari se non quelli che fisiologicamente hanno, quindi i figli vengono sullo stesso, non è questo il problema. E siccome per gli altri il problema non vale, non vedo perché alcune categorie devono portare davanti il problema che loro non possono stare la domenica con i figli. Le potrei fare un elenco di categorie professionali che la domenica non sempre possono stare con i figli. Il problema è generalizzato, è un condizionamento secondo me legato a schemi sociali che non esistono più. Non è che recuperiamo la famiglia tenendo i negozi chiusi la domenica. Se la famiglia è diventata qualcos'altro, non è certo perché la domenica la gente va a fare la spesa, secondo me. Antonio, sentiamo Antonio. Sì, buongiorno Nicoletti. Sì. Guardi, io le volevo fare la mia osservazione partendo da tre fronti, da tre punti. Allora, io per esempio sono un tecnico di automazione industriale, ho avuto modo di girare anche il mondo. Allora, una delle cose che ho visto è che fuori dall'Italia mi capita sempre, spesso è sempre successo che io abbia trovato negozi aperti un po' tutte le ore, e questa è sempre stata una cosa utile per me. Quindi immagino che chi viene da fuori per turismo in Italia, e potremmo vivere praticamente solo di turismo in Italia, sarebbe una cosa molto apprezzata, per esempio, no? Altra cosa, io appunto lavorando così anche all'estero, la domenica è la domenica qui, nei paesi arabi, non so, c'è il venerdì, io spesso mi trovo a dover lavorare la domenica, e questo ormai si compensa con un discorso di retribuzione diversa. Cioè, questo è chiaro, il festivo ha una retribuzione diversa, questo non ci piove, questo non l'avevo mai messo in discussione, figuriamoci, questo non lo metto in discussione. Che chi lavora i giorni festivi ha una retribuzione diversa, così deve essere, dovrebbe essere perlomeno. Deve essere, casomai ci devono essere degli organi competenti di vigilanza, lo Stato non so chi. Sì, ma questo è il problema vero. Chi lavora la domenica deve avere una retribuzione adeguata al lavoro domenicale, su questo siamo d'accordo. Chi lavora la domenica deve avere comunque il suo lecito riposo durante la settimana, uno non può lavorare 7 giorni su 7, sono lavoratore dipendente, sono imprenditore un altro discorso, sono libero professionista un altro discorso, nessuno può impedire a un avvocato di lavorare tutto il giorno, tutti i giorni della settimana, figuriamoci, o ancora commercialista o un medico, ma un dipendente elogio debba avere un giorno per starsene tranquillo, e se questo giorno non corrisponde sempre con la domenica non lo vedo come un problema insolubile. Giampiero? Pronto? Sì, Giampiero, l'ascolto. Sì. Nicoletti, buongiorno. Io sì, sono pure io non ho mai rispettato la domenica, ho sempre lavorato. Però quindi andrà all'inferno, questo è il risultato. Andrò all'inferno, sono pure ateo, quindi chissà che cosa troverò. Peggio ancora. Voglio dire. Olio bollente, diavoli. La faccenda, diciamo, è che secondo me, da quello che ho sentito, perché ho tanti amici, insomma, che tra i primi rimpianti che avevano è quello, dice, io ho passato tutta l'infanzia, tutta l'adolescenza senza poter parlare con mio padre, senza poterlo vedere, perché chi faceva il pastore, chi faceva altri lavori del genere, per esempio. E quindi non voglio che con i miei figli questa cosa si ripeta. Io penso anche a quelli che prendono i mezzi pubblici la domenica, qui in Sicilia soprattutto, non funzionano, ti devi arrangiare. La stessa cosa si diceva per i servizi comunali. Dopodiché io non sono per nulla per l'imposizione. Se ci fosse un incentivo, io sono sicuro che comunque ci sarebbe tanta gente che sarebbe disposta a farlo. Ma siccome poi il meccanismo è quello per cui Amazon, IKEA, Apple... Mi sente? Sì, no, la sto ascoltando, la sento con attenzione. Allora, c'è sempre una contrazione praticamente di quelli che sono i diritti, non è tanto il restaurare. Sì, ma questo lei ha ragione, in questo caso è giusto che il profitto non prevalga. Il mondo sta cambiando, però è anche vero in che direzione. La socializzazione, la mancanza di socializzazione ci sta facendo vivere meglio? Io trovo che non abbiamo mai socializzato nella storia dell'umanità quanto stiamo socializzando adesso. Noi abbiamo a disposizione centinaia di contatti e di relazioni nella nostra mano, questo non è mai accaduto, la gente aveva socializzazioni molto più ristrette. Ma questo è un discorso che riaffronteremo, vedete, sono arrivato alla radice del problema. Non è tanto il discorso del rispetto alla domenica, ma è l'imposizione di un modello arcaico che non potrà mai più tornare. Questo è il vero succo del problema. Alla prossima.